Time Out di Luca Mastrantonio. Ultime notizie dal mondo della politica, o forse della commedia dell'arte, perché Bossi, rispondendo all'ipotesi di avere la Formula 1 a Roma, ha risposto: ma potete fare la corsa delle bighe. Poi ha chiesto scusa, ma prima aveva già parlato di sono porci questi romani, qualcosa che appunto sembra la commedia dell'arte, una commedia di Vanzina. Però dalla Svizzera, vedete, non hanno risparmiato neanche i nordici, perché c'è una campagna mediatica contro i pendolari che dal nord Italia vanno in Svizzera e sono stati paragonati ai topi, ai ratti, assieme ai rumeni. Chi la fa l'aspetti? Zaia, il governatore del Veneto, però dice che al distretto di polizia non si può sempre fare la solita caricatura del bergamasco, ed è intervenuto duramente con una lettera a Fedele Confalonieri. E per il sud qualcosa sta uscendo al cinema di molto positivo, una commedia di Claudio Bisio, Benvenuti al Sud, che capovolge giù al nord una commedia francese, in cui insomma c'è uno spot molto positivo per il sud, che quest'estate ha avuto come best seller un libro, Terroni, scritto da un autore meridionale. Ma veramente Roma è ladrona, oppure c'è un ballo a due in cui il nord sfrutta anche il sud? Quante responsabilità ha il sud di far parte di questi stereotipi, di dare sostanza a questi luoghi comuni sui meridionali che non lavorano, su una classe politica corrotta? Benvenuti a Time Out, io sono Luca Mastrantonio, dal cognome quindi di origini meridionali, anche se sono nato a Milano e vi parlo da Roma, quindi cercherò di avere un po' di equilibrio su questa questione che divide letteralmente l'Italia. E cercheremo di capire appunto quanto nord, sud e Roma, l'est e l'ovest, possono dialogare. Ma prima di tutto bisogna capirsi, e allora ecco un ripasso di Napoletano tratto dal nuovo film con Claudio Bisio di Luca Miniero, Benvenuti al Sud. Comunque non è difficile parlare come noi, basta togliere l'ultima lettera a una parola e il gioco è fatto. Per esempio telecomando diventa telecomando, bicchiere diventa un bicchiere. Beh, se è così è facilissimo, sono capace anch'io. E il piatto diventa un piatto. Uomo. E tu c'hai da accise, però. Direttore, però tutte queste lettere non è che vanno perse. Sì, direttore, noi qua non buttiamo niente. Ma noi recuperiamo tutto, direttore. Per esempio una semplice vocale diventa una parola fatta. Per esempio la E diventa affermativo. Diventa La O è avvertimento. Per esempio uno dice, oh, ecco, valentissima voce, magari qualcosa, sei attigiano. Oh. Lei per esempio significa imenaggiai, i andare. La U e la A si aggiungono insieme, diventa stupore. Per esempio uno vede una bella donna, dice uah! Ma provate a ordinare un piatto. Cameriere! Quando viene una così? Dovete dire ui! Ui! Senta, noi vorremmo ordinare... Noi volessimo spuzzugliare un poco. Non te la lì. Virano via o cazzo, pa banca l'acqua. Stia non ho capito niente, sono del maestro, sei 2 mesi che sono qua. Uno si trova al sud, mangia cibo tipico e si trova un cameriere di mestre. E siamo in linea con Claudio Bisio, buongiorno. Salve a tutti, buongiorno. Qual è la cosa più strana che le è capitata al sud o girando questo film, appunto, magari trovare un cameriere di mestre a cui ha parlato in finto napoletano? anche quello. Quello che fa il ruolo, tra l'altro, del cameriere di mestre era il nostro grandissimo direttore della fotografia, che è veneziano, quindi si è prestato a fare questo piccolo ruolo. No, beh, al sud, come anche al nord ormai d'Italia, si trova di tutto. E a Milano, e lì di trovare personaggi, per esempio, poi hanno fatto la fortuna anche di un personaggio cinematografico di Diego Batantuono, cioè Terroncello. Il milanese al 100%, come diceva lui, sono all'ordine del giorno. Invece, per esempio, tornando al nostro film, al sud, io ho girato 8 settimane nell'ottimo Cilento, e lì qualche volta qualche gag che c'è nel film mi è capitato davvero, cioè a dire di non capire proprio cosa dicessero, farmelo ripetere 2 o 3 volte, non capire, poi annuire, far finta di sì e farmi consegnare delle cose che non volevo. Il primo giorno è stato curioso, in questo paesino bellissimo, Santa Maria di Castellabate, che è proprio un paesino con poche centinaia di anime, e ha una via centrale, diciamo, una specie di vialone, no? Dove fanno le vasche, pieno di bar, perché è un luogo anche turistico. Il primo giorno appena arrivato, ovviamente, che è durato davvero lo spazio di un giorno e mezzo, mi fermavano tutti, autografi, foto, e tutti i bar, venga a prendere un caffè, come nel film. E io provavo a dire, il primo caffè l'ho accettato, poi il bar successivo, di guardi, l'ho appena preso al bar, si stava offendendo, come, è nel bar, questo piglia un caffè, il mio caffè. Insomma, quindi ho fatto una fila di caffè o non ho dormito per due notti. La tachicardia veramente a mille. E poi sono stato tranquillo tutti i mesi. Comunque, insomma, noi adesso, dopo questo film, almeno al sud possono chiamarla Claudio Bixio, perché comunque è un'operazione patriottica per i meridionali, che vedono, è un film che è un'operazione simpatia, insomma, contro i luoghi comuni, gioca con i luoghi comuni. Quindi possiamo chiamarla Claudio Bixio? Beh, probabilmente era un mio antenato, il Nino, mio bisnonno, Nino Bixio. Anche perché Bixio, mi dicono che la S è un cognome di origine genovese e originariamente aveva la X, che poi si legge in Bijou, cioè un po' addolcita. Quindi davvero, forse sono pronipote di Bixio, garibaldino, e sì, io ci tengo, insomma, non è che non, storicamente non sono uno di quelli che patria, famiglia, chiesa e stato, non sono di quelli lì. E Valpadana, no? No, ma neanche Valpadana, cioè comunque... Sentendo alcune aree secessionistiche degli ultimi tempi mi viene di essere un po' più tricolore io stesso. Insomma, la lingua è una, nonostante che ogni tanto i dialetti non si capiscono reciproci, perché se uno va appunto nel Veneto o nel Bergamasco non è che... È dura. A proposito di dialetti, c'è un dato che mi ha colpito del film, che in fondo il napoletano, diciamo i dialetti meridionali, dalla comicità, come il caso di Benvenuti al Sud, o anche racconti epici come Baria, beh, i dialetti del Sud hanno una dignità al cinema narrativa. Invece, per esempio, in Benvenuti al Sud ci sono degli intermezzi, Ciapirà, Vaciapirat, Seghè, però un film in dialetto milanese oggi avrebbe mercato? O quanto ne avrebbe? Non lo so, bisogna risalire forse all'albero degli zoccoli di Olmi, che però non era un film di cassetta probabilmente. No, direi no. Oggi quindi no, o quantomeno non quanto... Non so, un film in dialetto veneto, visto che Zaia chiede sempre anche di personaggi un po' così che rispolvino... Beh, insomma, nel caso mi candido, perché un pochino... Ci faccia una frase in veneto, così facciamo uno spot per Zaia. Mi non so chi, non so chi per vendere, ma per mi so i, perché mi ricordo, sono dei retaggi della commedia dell'arte, consigliato da Pantalone. Certo. Senta, noi comunque come slogan pensiamo per questa puntata di Time Out, vada via al sud, perché comunque a vedere il film viene una gran voglia di trasferirsi al sud. Beh, insomma, quel sud lì, devo dire, io stesso, io curiosamente negli ultimi due anni ho girato parecchio, ho fatto una fiction con Sabrina Ferilli a Salerno, ma non ero mai stato nel Cilento, confesso la mia ignoranza, quindi invito davvero tutti gli italiani, me per primo, prima di andare in India, in Australia, in America e altrove. O Puerto Escondido, perdoni. O Puerto Escondido, grazie per la citazione, di conoscere meglio, per esempio il Cilento, a parte quei luoghi che si vedono nel film, cioè il mare, la costa, un mare pulitissimo, bellissimo, ha anche un parco naturale, il Cilento, nell'entroterra, certo, che io ho avuto la fortuna di visitare, che nel film non viene ripreso, non ce n'era bisogno, bellissimo, quindi io sono più verso il paradiso, nel senso del parco, certo, del nord, ma insomma... Okay. Qual è un'esperienza invece brutta che ha fatto al sud? Un'esperienza che insomma poi magari poteva capitare anche al nord, però le è capitata giù. Una cosa bruttissima, non personale, ma quasi di rimbalzo, cioè dopo aver fatto questo bello spot per il Cilento, la parola Cilento è diventata assurda alle cronache in queste settimane per l'uccisione del sindaco Vassallo, il sindaco di Pollica e Acciaroli, che è un comune, se si guarda sulla cartina, è a 2 chilometri da dove abbiamo girato noi. Io non l'ho conosciuto personalmente, ma sapevo il lavoro che faceva sul turismo, un turismo ecologico, un turismo pensando avanti, ed è stato crivellato di colpi. Per cui nella gag che c'è nel nostro film, che da noi nasceva veramente solo gag, cioè io che mi presento al sud con il giubbotto di proiettile, quando ho visto le immagini del telegiornale con questo sindaco crivellato i colpi, ho pensato, ecco, se l'avesse avuto lui quel giubbotto. Quindi, insomma, di cose, niente, ahimè, ancora, questo è ancora risolto lì, in quei luoghi. Cioè, mi sembrava veramente un piccolo paradiso terrestre quella zona che ho visto. Effettivamente, io, così non è. Comunque, insomma, ricordiamo, una commedia divertente, una commedia che è uno spot per un sud, che comunque vuole far sorridere e sorridere. Ringraziamo Claudio Bixio di essere stato con noi. Grazie a tutti voi, ciao. Agente Brent Giovanni in forza al 10° commissariato Tuscolano, Roma, Italia. Saltati così però, Bello spero. 10° Tuscolano, chi parla? Quello è il fax. E questo era il distretto di polizia dove un bergamasco veniva, secondo Luca Zaia e secondo alcuni nordici, satireggiato come al solito da Roma, che oltre che ladrona fa anche le pernacchie alla laboriosa gente del nord. E siamo in linea con un intellettuale del Veneto che però è venuto a Roma, Franco Miracco, portavoce di Galan prima alla Regione Veneto e ora a Roma al Ministero dell'Agricoltura. Da intellettuale, assieme a Massimo Cacciari, ha pubblicato quest'estate un manifesto Verso Nord per avvicinare l'Italia all'Europa. Buongiorno Miracco. Buongiorno, buongiorno. Ecco, un veneto che viene a Roma decisamente in controtendenza, non crede? È in controtendenza rispetto all'ignoranza, nel senso che basti pensare, senza riandare alla storia antica, alla storia di Roma, Cesare, i suoi più fidati legionari venivano dal Veneto, venivano dalla Gallia Cisalpina. Poi le origini di Venezia, ormai sono decenni questo è stato accertato da scavi archeologici e da studi, Venezia era campagna romana. Per arrivare a tempi più recenti, si fa per dire, c'è o non c'è una piazza che si chiama Piazza Venezia nel cuore di Roma? Romana, molto romana. Non c'è una chiesa che si chiama San Marco a fianco di Palazzo Venezia? Ci tolga un dubbio, Cesare, perché si parla sempre di Cesare, si pensa a lui, ma è Berlusconi in questo caso. L'ambiguità, perché poi c'è il cesarismo. Ora il cesarismo è qualcosa di profondamente deleterio invece. È anche un fenomeno nordico forse, perché il successore di Galan, Zaia, forse si comporta in maniera un po' da Cesare, vuole delle fiction che siano più indulgenti verso le figure dei nordici, in questo caso il bergamasco. Lei come la vede? Lei è partito dalla latinità, arriveremo alla commedia dell'arte. Da Plauto a Goldoni, ma ci sostiamo sulla fiction per un attimo, che è il grande racconto nazionale popolare. Benissimo. Lei parlava di commedia dell'arte. Sì. Brighella viene da Bergamo, quindi era una maschera, il polentone, la polenta, ma di cosa stiamo parlando? La commedia dell'arte italiana, che è una delle veramente delle glorie culturali del nostro cinema. A volte però la commedia dell'arte sconfina nella politica. Lei appunto le frasi di Bossi su Roma ladrona, la corsa della biga, come le prende? Come uno sconfinamento appunto della commedia dell'arte nella politica? Ma se la commedia dell'arte, quando la commedia dell'arte si presenta con alcuni aspetti grotteschi, forse sì, però si tratta... Questa delle bighe è un po' grottesca forse. È tutto grottesco quello che dice Bossi o qualunque altro esponente della Lega quando si riferisce a Roma e romani in questo modo. Lo trovo assolutamente fuori luogo. Oltretutto non conoscono Roma, non sanno chi sono i veri romani, hanno un'idea distorta, appunto macchiettistica, all'altezza di una sottocultura e non della cultura grindina. E allora rivolga un invito al giovane Bossi, al Trota, di venire a sguazzare un po' a Tevere, nel Tevere, che dice? Sì, non gli farebbe certamente male, però bisognerebbe consigliargli gli ambienti giusti, le persone, eccetera. Io amo Roma da sempre, ho vissuto a lungo a Roma, ho studiato a Roma e mi sono creato a Roma, quindi con me la doppia cittadinanza. Male, sono un veneto romano. Ringraziamo Franco Miracco di essere intervenuto. Time out. È entrato adesso uno. Benvenuti a sti procioni, belle grossi e capoccioni, e tu che sei un po' frifri e dimmi un po' che c'hai da di. Continui. Continui a suonare. Non sono Frocione, non mi chiamo Frifri, sono commissario e ti faccio un culo così. Scusate, continui a cantare. Insomma, questi sono gli stornelli, risponde Banfi, che viene accolto in maniera canzonatoria da appunto uno stornellatore alla parolaccia in fracchia, la belva umana. Chissà come verrà accolto, se verrà a seguire la pasquinata che lunedì, domani, è organizzata tra gli altri dalla UIL per rispondere alle accuse di Bossi a Roma ladrona. E siamo in linea con il segretario della UIL Roma e Lazio, Luca Scardone. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Ma lei anche, se non sbaglio, scritto una poesia che potrebbe leggerci. Sì, è il pamphlet con cui noi praticamente presentiamo la serenata a Roma. Firmato Pasquilino con UIL, la sua sigla appunto. Prego. Povera Roma, che tristo destino. Ecco perché siamo qui da Pasquino. La penna del quale difese i romani da lanzi chienecchi, padroni e sovrani. Lui addoprava l'incrosso al curaro e ci aiutava a masticamaro. Morri in verdimo lo scritto e la storia e pulcicamo i pieni del boria. Noi siamo stufi d'essere insultati dopo che Roma l'ha pure ospitati. Se siamo rotti di Roma ladrona, fosse che fosse la porta buona. Persino il colle cianci camaro, pensando, o destino cinico e baro, che mo lui è romano e fa lucchi grossi, non le sopporta le sparate dei bossi. Insultano, imbrogliano, stanno a gufà, ma se giri al centro li trovi a magnare. Una trippa, una coda, una carbonara, poveri cocchi che vita amara. Gli fossero almeno a riconoscenti, ma che ti aspetti da sti miscredenti? Se vanno a rinchiudere una valle padana, poi vanno a San Pietro a baciare la sottana. La ricordassero l'arteri padani, che si stanno in Italia e sorpe i romani. Se ricordassero sti pappagalli, che è stata Roma a salvarli dai galli. Beh, dalla poesia alla prosa state anche preparando un dossier come sindacato in risposta alla tesi di Roma ladrona. Ci vuole anticipare qualcosa? Mi riprometto di chiedere a Bossi di confrontarsi con me o con chiunque del sindacato romano su quelli che sono stati i danni all'economia romana di tutto ciò che è emigrato oltre il Rubicone. Faccio solo un esempio. Roma è l'unica capitale, penso, al mondo che non abbia una banca con sede a Roma. Stanno tutti a Milano. Ecco, un contrappasso. Ringraziamo Luca Scardone di essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. E adesso diamo la parola a un vero nordico 100%. Invece di guardare così in alto, perché ne guardi indorno, faciolè? Che stai dicendo in alto, indorno? Come parla? Sembra la settimana enigmistica, pare un cruciverbo vivente, un rebus umano, sei. Voglio dire, se tu mi dici ci venghi a ballare, io potrei sempre accettare. Me so spiegata? Ma io mi domandi dica, senti ragazza ore... Secondo te ti pare che uno come me, milanese, il 100%, può portare il ballamento una schifezza di meridione a terra un cielo alto 1,20 come te? Ma levati di mezzo, c'è qualcuno della tua stazza su, ciao panda a ballare. Diego Abbatantuono, milanese al 100% nel tango della gelosia. E in fondo il rapporto tra nord e sud è un tango dove qualcuno conduce, qualcun altro è condotto. Quest'anno tra i bestseller c'è un titolo che potrebbe essere stato scritto da un intellettuale leghista contro il meridione, si chiama Terroni. Tutto quello che è stato fatto perché gli italiani del sud diventassero meridionali, edito da PM, ma scritto da Pino Aprile, un meridionale doc che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Lei ha analizzato sul piano economico, ma ovviamente anche antropologico, questo che appunto abbiamo definito un tango tra il nord e sud, in cui, dal suo libro sembra chiaro, il nord conduce e il sud ha subito. Questa disattenzione verso il sud, che si traduceva in tasse più gravi al sud, investimenti praticamente azzerati al sud, mentre con le tasse di tutti le infrastrutture venivano eseguite solo nel resto d'Italia, dalle bonifiche alle strade, alle ferrovie, eccetera, eccetera. E questo è un dato di fatto e dura ancora oggi. Ma ovviamente non è tutta colpa dei polentoni, c'è anche una parte importante forse nella classe dirigente, penso anche a quella più recente che ha consegnato il sud, quantomeno ad un grande racconto che nella politica è nelle mani della Lega. A volte sembra una commedia dell'arte, sembra quasi folklore, però insomma il legame che ha con il territorio la Lega al sud, quale partito ce l'ha o può averlo secondo lei? Il radicamento nel territorio ce l'ha anche la Chiesa Cattolica, ce l'ha anche i Carabinieri, ce l'ha anche la mafia, molto di più della Lega, cioè non è un bene in sé, è uno strumento, è come un cacciavite, lo puoi usare per bloccare la portella della macchina che quindi non volerà via mentre vai sull'autostrada a 130 all'ora e lo puoi usare per sgozzare il vicino con cui hai litigato. Ascoltare la propria gente, come dice la Lega, che significa? Ad Adro la Lega ascolta un sindaco che caccia i bambini dalla mensa e marchia la scuola pubblica con 700 simboli di partito e non ascolta l'omonimo del sindaco, Lancini anche lui, che paga di tasca sua le rette dei bambini che non si possono permettere di pagare la mensa. L'irradicamento nel territorio, inteso come potere territoriale, riporta indietro la civiltà umana di molti millenni, perché lo riporta allo scontro fra tribù. La mia tribù è meglio della tua, facciamo le classifiche, nasce il razzismo. Quindi c'è poco da ridere, anche se siamo partiti con delle suggestioni a volte comiche. Lei andrà a vedere questo film di Claudio Bisio, Benvenuti al Sud, che offre un'immagine molto così anche felice, paradisiaca, di questo paesino Castellabate. Certo, lo deve... con piacere, sì, come ho visto giù al nord e mi sono divertito tanto. Non riuscirò, dico la verità, a divertirmi molto, perché Angelo Vassallo, che era il sindaco del paese accanto a Castellabate, era un mio grande amico, è un esempio per tutti gli italiani. E l'ha ricordato Bisio, infatti, che è vicino... Ed è stato ammazzato come un cane, da solo. Perché quando si combatte al sud contro la mafia, i meridionali sono soli con i rimproveri e gli sfottò dei settentrionali, di quelli disonesti, perché i migliori invece sono accanto a loro. Quando c'è da sfilare, e ora ammazzateci tutti, dei ragazzi di Locri, non si trova la politica del nord lì, ma si trovano gli onesti del nord a sfilare assieme ai ragazzi. E chi sono? Ci faccia qualche nome, ci faccia qualche nome, parlar bene, insomma. Ma per esempio il figlio di Dalla Chiesa è sempre in queste manifestazioni. Certo. Ringraziamo Pino Aprile di averci appunto ricordato l'altra faccia di quella che a volte è una commedia dell'arte, a volte è una tragedia senza arte. Grazie Pino Aprile. Grazie a voi, scusate la foga, ma... No, è passione. Il nostro time out sta finendo, ma forse abbiamo capito che in questo scontro tra tribù, che ha un linguaggio della commedia dell'arte, si nascondono interessi economici, antichi e nuovi, come appunto quello del cinema e della produzione d'immaginario. A volte uno spettacolo godibile, a volte invece puro avanspettacolo. Time Out finisce qui, io sono Luca Mastrantonio, ringrazio Valerio Rocchetti in regia e voi ascoltatori di essere stati assieme a noi.